può sollevare, che la terra è pesante, pesante da portare, bassa, troppo bassa, preme, schiaccia, fucina di potere temporale. Potere temporale, un unico abominio clericale, delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia. L'età del bruci il mondo casca in terra, l'età del tutto giù nuova la terra, rosso fiammante. In età acerba di passione, rosso fiammante, ma senza età matura, marcia in postura, ma senza età matura, marcia in postura, dominio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, combatta, schiaccia.